9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, buon mercoledì 14 ottobre. Noi per primi sulle date, la mattina presto, di solito tendiamo a rimanere sul giorno prima. 14 ottobre, ci occupiamo oggi di tentare di capire meglio che cosa è avvenuto due mattine fa a Milano, alla caserma di Via Parrucchetti, che è stata colpita da un attentato. Tutti lo sappiamo, continuiamo a leggerlo, a leggere gli sviluppi delle indagini che hanno portato all'arresto anche dei due complici dell'attentatore, questo libico Mohamed Gama, che si è fatto esplodere non appena ha capito che il dispositivo esterno alla caserma gli avrebbe impedito di entrare dentro per rendere il suo attentato ancora più sanguinoso. La domanda di fronte alla quale la mia modesta opinione, sentiamo poi cosa ne sentiranno i nostri ospiti e sentiamo anche cosa ne penserete voi chiamandoci all'800 24 00 24, però la mia impressione a distanza di tanti anni con cui siamo alle prese con il terrorismo jihadista, che ha diverse espressioni, perché il terrorismo jihadista non è solo quello delle reti internazionali che pongono in essere reclutamenti con flussi internazionali, indottrinamenti, lunghi periodi di stazionamento disattivo per poi magari inviare nei paesi in cui c'è lo scontro armato più forte, come era l'Iraq, come oggi resta l'Afghanistan, i suoi militanti. Ci sono anche reti diverse dell'islamismo fondamentalista che reclutano invece nei diversi paesi in cui ci sono immigrati di religione musulmana, magari in condizioni di minore integrazione sociale, culturale, quindi più esposti all'attrito, alla frizione culturale quotidiana con i paesi che li ospitano, per magari farli restare al margine delle attività magari di centri culturali, sedicenti islamici, di moschee, e magari nell'attesa che un segnale, una parola, qualche cosa li possa indurre a essere sia pur isolati ma potenzialmente molto pericolosi, esattamente come quello di due giorni fa. Poi ci sono tipologie ancora diverse, ci sono casi isolati invece di persone che o per ragioni personali di problemi intervenuti nella propria vita privata, potrebbe essere questo il caso di Mohamed Gama, nel proprio bilancio di famiglia che non reggeva più, oppure comunque alle prese con un fenomeno che è lo stesso di fronte al quale poi il padre fondatore del fondamentalismo islamico nel secolo scorso, un egiziano trapiantato negli Stati Uniti, iniziò a motivare un odio radicato e profondo verso la civiltà occidentale, identificata con la corruzione dei costumi morali. Possono avvenire gesti individuali che magari non hanno a che vedere né con le reti islamiste protagoniste dei traffici internazionali del terrorismo, né magari con affiliazioni collegate comunque a reti islamiste nel nostro paese, ma sono gesti individuali. La mia impressione, e qui concludo questa mia premessa, è che ancora una volta, di fronte a quello che è avvenuto due giorni fa, le interpretazioni, almeno sui media, non sto parlando degli specialisti, sentiremo gli specialisti, ma almeno sui media restano le più disparate. Mi limito a fare notare a voi che vi state ascoltando, per esempio, che se prendete alcuni dei maggiori quotidiani di oggi, troverete che il criterio della gerarchia giornalistica nel continuare a coprire la vicenda dell'attentato di Milano è il più diverso. Per esempio La Stampa di oggi dedica ancora la pagina 2 e la pagina 3, quindi una grandissima attenzione, no? Dopo la prima pagina il maggior rilievo della foliazione è data alla vicenda di Milano, con un prezzo di approfondimento di cronaca, i complici del kamikaze con 40 kg di esplosivo e la tesi affidata a Vittorio Emanuele Parsi, che in risposta all'interrogativo che ci poniamo noi oggi afferma non è stato il gesto di un pazzo. Poi si riferisce dell'intervento di Maroni, il ministro Maroni ieri, l'antiterrorismo, segnale contro le missioni in Afghanistan, il giudizio dell'antiterrorismo, dilettanti ma pericolosi, e poi un servizio dedicato a Milano, la paura dietro la quotidianità, raccogliendo le voci di coloro che vivono nel quartiere di case popolari all'Aler di Milano, dove a dire la verità 9 su 10 dei residenti sono immigrati, che descrivono la paura di chi ci vive. Invece altri quotidiani fanno una scelta completamente diversa. Se prendete il Corriere della Sera di oggi, le due pagine dedicate agli sviluppi di cronaca e ai commenti, agli approfondimenti della vicenda dell'attentato a Via Parrucchetti a Milano sono a pagina 20-21. Si parla di una cellula nata in un cortile, e questo è il titolo dell'articolo che ricostruisce l'intreccio tra l'attentatore e i due suoi sodali che sono stati arrestati, e si dà un'interpretazione tutto sommato anche del tipo di esplosivo nitrato di ammonio usato, come una bomba usata anche dall'Ira e dall'ETA. Tutto sommato, come è noto, il nitrato di ammonio può diventare esplosivo con un minimo innesco, si può preparare nella propria vasca da bagno, decade rapidamente, ma insomma è un esplosivo che chiunque può rapidamente realizzare attraverso fertilizzante che si compra a basso costo e in un qualunque consorzio agricolo. Poi il giornale naturalmente sostiene ancora oggi, con la pena di Renato Farina, basta con la fiaba dei terroristi per caso, ed è la stessa tesi di Libero. In buona sostanza la mia impressione è che ancora una volta attentati di questo genere consentono a ciascuno di suonare il tamburo che preferisce, per così dire, a prescindere dai fatti. Cioè coloro che sono convinti dalla vicenda delle torri nel 2001 che c'è un grande rischio islamista fondamentalista da affrontare nel mondo e nel nostro paese, tendono a giustamente essere allarmati da attentati di questo tipo e riaprono tutte le questioni. Siamo sicuri che abbiamo censito davvero fino in fondo tutti i centri islamici in Italia, tutte le moschee, che mettiamo in essere tutta la prevenzione che è il caso di mettere in atto perché intorno a questi circoli, a questi radicamenti, non fioriscano le grandi reti né le piccole reti di affiliazione e attivazione islamista. Dall'altra parte c'è chi invece sostiene che in qualche misura bisogna attendere che la risposta sbagliata dell'Occidente in Iraq, in Afghanistan, venga a essere ridimensionata da Obama, e che quindi per effetto di tutto questo anche l'islamismo venga a ridursi. E costoro, legittimamente, dal loro punto di vista, tendono a dire: ma si tratta di isolati, insomma non è che si può impedire che se uno impazzisce prenda una valigetta e va a una caserma, tutto sommato non sono successi grandi guai, si è ferito in realtà gravissimamente solo lui, insomma inutile montare l'allarme. Allora, tra questi due estremi tentiamo di capire gli addetti ai lavori che cosa ci dicono dell'attentato che è avvenuto, che cosa ci dicono dell'Italia come terra di possibile affiliazione internazionale, affiliazione interna, fenomeni di terrorismo in sonno oppure casi isolati. Vediamo. Allora, abbiamo collegato in questo momento innanzitutto Stefano D'Ambrosio, che è capo ufficio coordinamento dell'attività internazionale del Ministero della Giustizia. Buongiorno dottor D'Ambrosio. Buongiorno Giannino, buongiorno. Che ha seguito per molti anni in prima persona le indagini più delicate, Milano, non solo Milano, su questo filone del terrorismo. Poi abbiamo Andrea Margelletti, che è il presidente del Centro Studi Internazionali. Buongiorno dottor Margelletti. Direttore, buongiorno e un caro saluto anche a Stefano D'Ambrosio. Che da anni segue sul campo, spesso anche direttamente nei paesi in cui più la guerra al terrorismo è incandescente, i collegamenti internazionali delle diverse agenzie, diversi apparati che sono impegnati da anni nell'affinamento delle proprie strategie. Dottor D'Ambrosio, la sua impressione di fronte all'attentato di Milano è che siamo in presenza di quale tipo di fenomeno? Lei è stato davvero esaustivo, non lo dico per piaggeria, nel rappresentare in modo davvero singolarmente sintetico tutto quello che si dice e si è detto negli ultimi anni a partire dall'11 settembre sul fenomeno islamista o sul fondamentalismo in Europa e quindi anche in Italia. Io ho evidentemente, mi rifaccio a quello che ha detto lei, quale tamburo battere? Faccelo, per il momento rimango davvero stretto al vincolato alla mia qualità principale, che è quella dell'investigatore e dell'operatore analista del fenomeno. Questo episodio ritengo che da investigatore vada davvero circoscritto a un fatto di fra virgolette minore importanza, proprio perché non inserito in un'organizzazione criminale più ampia, più vasta. Questo non vuol dire che socialmente e sociologicamente non sia, come lei ha più o meno anticipato nei vari passaggi della sua introduzione, non sia una fonte di preoccupazione che deve essere comunque monitorata, analizzata e valutata con attenzione, però dal punto di vista squisitamente del rischio pericolosità investigativo ad oggi pare che davvero si tratti, come è stato detto anche dal Corriere della Sera, una cellula sorta nel cortile, quasi a sottolineare la casualità è la mancata strutturazione di fondo di queste tre persone, i cui rapporti devono essere ancora del tutto sviluppati. La polizia in questi giorni cercherà di capire come è sorto lo stimolo di ispirazione dell'esecuzione di un attentato, chi è stato lo stimolatore, chi può essere stato l'ispiratore o il cattivo maestro che incidentalmente o in un modo un po' più convinto ha avuto rapporti con queste tre persone. Ecco, tutto questo si svilupperà nei prossimi giorni, sono certo. Però per il momento ritengo, non per evitare inutili allarmismi, ma per corrispondenza ai fatti, di rimanere insomma, abbastanza bassi sulla concreta insomma, pericolosità di queste tre persone. Senta, le faccio una domanda in relazione a poi una polemica che sui giornali si è sviluppata le ore immediatamente successive all'attentato, poi è anche rientrata però per una nota sia dell'onorevole Rutelli, presidente del COPASIR, del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza, sia per il riconoscimento dello stesso dottor Spataro, che coordina la procura le indagini, perché proprio ospite della mia trasmissione Rutelli aveva detto, appena si era diffusa la notizia dell'attentato, mi risulta che intercettazioni, allarmi, quindi dei warning erano arrivati nei mesi precedenti proprio relativi alla caserma di via Perrucchetti. Il dottor Spataro aveva detto no, veramente non ci risulta, poi è emerso nelle ore successive, quindi nessuna polemica tra la sede politica e coloro che conducono le indagini, che è sistematico, per così dire, che nelle intercettazioni, che nell'ambito delle attività o di prevenzione o di indagini formali su esponenti milanesi della comunità e dei movimenti islamisti tenuti sotto l'occhio per possibili attentati di questo tipo, emerga l'ipotesi o emergano allusioni dirette ad alcune installazioni militari della città, e tra cui quasi sempre queste di Santa Barbara, cioè via Perrucchetti, perché è uno dei più evidenti, delle più evidenti presenze militari. Detto questo, nella sua esperienza, dottor D'Ambrosio, in questi anni, senza dirci niente che non ci possa dire, e dal punto di vista del coordinamento delle attività internazionali, noi abbiamo l'impressione che a lei è che potevamo fare di più e abbiamo dovuto, su questo filone, come in tanti altri filoni di indagini, di coordinamento delle indagini, dovuto fare un po' le nozze con i fichi secchi, pochi mezzi e pochi uomini da poter dedicare, lo dico senza polemica verso la parte politica, ma come un dato di fatto, oppure al confronto internazionale con gli altri paesi europei, soprattutto più che quelli anglosassoni, lei ritiene di poterci rassicurare, cioè, possiamo dirci abbastanza soddisfatti delle risorse dedicate, significa uomini che conoscono lingue molto diverse, capaci di dedicarsi a questa attività praticamente H24, molti traduttori specializzati a volte in dialetto. Cioè, abbiamo tutto questo in azione? Proprio, va detto in tutta franchezza, senza piangerci addosso, ma in tutta franchezza ha detto che proprio gli ultimi esempi a cui lei aveva fatto riferimento, quindi di professionalità che dovrebbero essere davvero calzanti e specializzate nel contrasto a questo tipo di fenomeno che è transnazionale, appunto, e che richiede una specializzazione adeguata. Ecco, siamo, non dico in ritardo rispetto ad altri paesi, non faccio una valutazione comparativa, però sicuramente non abbiamo raggiunto quel livello di specializzazione che a volte pare raggiungersi soltanto nei film americani che ogni tanto passano sui nostri media, piuttosto che nella realtà. La verità è che insomma, le forze dell'ordine non hanno solo problemi di limiti di risorse, sia materiali che umane, ma le forze dell'ordine devono davvero contrastare diversi vari problemi di tipo criminologico, dalle mafie varie, mafie nazionali, mafie internazionali e il terrorismo. Molte volte sembra che insomma, se non c'è il morto in casa, se non c'è il fatto emergenziale, uno di questi aspetti, uno di questi tre settori criminologici possa essere in parte soltanto seguito meno rispetto ad altri. Ma tutto questo fa parte, ritengo, della fisiologia della nostra storia di prevenzione, della storia italiana di prevenzione alla criminalità. E l'unica cosa che mi va di dire con certezza è che rispetto ai giorni immediatamente precedenti, antecedenti all'11 settembre, fino al 10 settembre 2001, quindi a partire dall'11 settembre 2001 a oggi, sono stati fatti passi in avanti enormi, sia dal punto di vista delle polizie, quindi polizie e carabinieri, sia dal punto di vista dell'intelligence nella capacità di monitorare al meglio questo fenomeno. Chiaramente tutto è migliorabile, però insomma grandi passi sono stati fatti in avanti. E ma quello di ieri era un episodio francamente difficilmente prevenibile, proprio per ritengo per i fatti che sono usciti sino ad oggi, a meno che non veniamo tutti smentiti già da domani, che se nasce una cellula in un cortile insomma la prevenzione difficilmente può svilupparsi in modo adeguato. Margelletti, è evidente anche solo dalle prime ricostruzioni giornalistiche di che cosa pare abbia indotto, nell'ipotesi che siano appunto individui isolati, ad armarsi e a portare a termine questo attentato, è evidente il loro riferimento a quanto pare alla nostra presenza in Afghanistan, cioè in missioni internazionali, in contesti delicati, in teatri operativi incandescenti, spesso molto più incandescenti di quanto i nostri stessi media non li descrivano, per la delicatezza delle missioni delle nostre forze speciali e dei nostri corpi operativi delle forze armate, perché ovviamente il paese ha una sensibilità su questo che è meglio tentare di non rendere troppo calda, e quindi siamo noi per primi giornalisti, ci atteniamo a una regola di trattare queste vicende con freddezza e con distanza. Detto tutto questo, la sua esperienza nel campo, sul campo proprio in quei paesi e proprio con la cooperazione delle forze di sicurezza dei paesi che sono più direttamente impegnati in questa guerra, e che in questi anni noi siamo al centro di un fenomeno di scambio di informazioni del miglior livello, della maggiore intensità e profondità possibile, per poi consentire di riversarlo anche sugli apparati di sicurezza italiani, oppure l'impressione è che da questo punto di vista veniamo considerati un paese che, come spesso è avvenuto nella storia italiana in altri tempi, questo tipo di confrontation la fa e non la fa, la fa con una mano e non la fa con l'altra, sperando che così evitiamo di essere nel fuoco dei attentati? Ma mi permetta innanzitutto di associarmi alle parole dell'esperto, il dottor D'Ambruoso, e dire che la sua analisi iniziale, se è fatta da, come dice lei, da uno che si occupa superficialmente, ce ne possiamo andare tutti a casa. La pianta. Quindi, e lo dico gratuitamente, nonostante sia genovese. Ora, lei è stato lucidissimo, è esattamente quello il punto. Nella realtà dei fatti, la nostra intelligence ha una lunga e consolidata tradizione di integrazione in strutture alleate, basti soltanto pensare che facendo parte della NATO per decenni ha avuto la possibilità di integrarsi, di essere parte di una rete perfettamente rodata, che è quella dei servizi NATO, che naturalmente avevano però nell'Unione Sovietica, nel patto di Varsavia, l'avversario di riferimento. Ma già prima dell'11 settembre, ben prima dell'11 settembre, è cambiato anche lo scenario, perché la minaccia islamica non è la minaccia fondamentalista islamica, radicale islamica, è qualcosa che il grande pubblico si è accorto nell'11 settembre, ma insomma è una cosa che la nostra intelligence conosce da tempi non sospetti. Per questo, sia in collaborazione con servizi collegati stranieri, sia in collaborazione con servizi alleati ma non collegati stranieri, in particolare molti paesi del Nord Africa, molti paesi medio orientali, è stata avviata una politica di assoluto intelligence information sharing, proprio perché quello che per l'Italia è una minaccia, che è la minaccia di cellule terroristiche, per quei paesi è un problema di sopravvivenza. Cioè, questi vogliono colpire in Europa o in paesi occidentali per indebolire il supporto che i paesi occidentali danno ai loro paesi di riferimento. Quindi in questo caso i paesi del Nord Africa, i paesi medio orientali più in generale, comunque quelli interessati al fenomeno, sono stati assolutamente disposti a collaborare con noi, e tenendo conto che quello che per noi è un fenomeno ancora da studiare, sempre in evoluzione, per loro è un fatto che nasce in casa, quindi ne hanno un'esperienza di lavoro, conoscenza delle tematiche, delle dinamiche interne, sicuramente fortissima, ed è per questo che c'è un'eccellente collaborazione che immagino Aspetta, che la dobbiamo per forza interrompere, anche perché c'è la qualità dell'audio che sta decadendo del collegamento telefonico. Speriamo di poterlo migliorare. Eccoci tornati in studio, stiamo tentando di capire con i nostri ospiti quale tipo di rete, quale tipo di connessioni, quale tipo di radicamento avessero i tre fino a questo momento arrestati, due complici oltre all'attentatore gravemente ferito per effetto del proprio gesto, l'attentato alla caserma di Milano avvenuto 2 mattine fa. Intanto, prima di partire dalle vostre voci, da alcune vostre telefonate, riferisco alcuni dei tantissimi sms che stanno arrivando. Per esempio, un tassista che ci dice: ma sento parlare in termini troppo generali, noi tassisti abbiamo il polso della situazione oggettiva della città. Qui a Milano ci sono intere aree e quartieri in mano a musulmani che controllano il territorio, ad esempio zona Padova, Loreto. Altri per esempio che dicono: ma oggi si tende di nuovo a sottovalutare quello che è avvenuto, la verità è che se l'attentato fosse avvenuto nella metropolitana invece che all'aperto fuori una caserma, oggi ne parleremmo in termini diversi. C'è chi chiede quale differenza vi sia tra gruppi organizzati e reti internazionali e cellule che nascono in un cortile, come dice il suggestivo titolo del Corriere di oggi, se poi in effetti con esplosivo fai da te si possono provocare attentati con tantissime vittime. E altri sottolineano invece il punto irrisolto della legalità generale, dicendo stanno in case occupate abusivamente nell'Aller, cioè nelle case popolari a Milano, e questo è il fenomeno troppo diffuso. Se non si parte dalla legalità dal basso, ovviamente tutto è collegato. Allora, innanzitutto ancora alcune telefonate dirette di ascoltatori. Cominciamo con Guglielmo da Bologna. Prego, Guglielmo. Buongiorno. Buongiorno. Da quello che ho letto, questo personaggio che si è fatto saltare era comunque un poco di buono. Tuttavia mi tocca dirvi che per esperienza personale anche persone molto evolute, ingegneri, laureati, hanno in testa solo quello. E finché va tutto bene, riescono a lavorare, hanno lavoro, guadagnano, possono mandare un po' di quattrini a casa per sostentare le famiglie che sono rimaste là, va tutto bene. Nel momento in cui entrano in crisi economica, comincia a frullare per la loro testa quello che è comunque il loro stato d'animo. Loro ci detestano, loro hanno la cultura della morte, che per loro invece è il massimo beneficio che si possa ottenere. E in più ho un'altra sensazione, sempre che mi deriva dal contatto con queste persone, che comunque sia, prima o poi, non aspettano che un segnale perché succeda qualche cosa. Guglielmo, quando lei dice loro, per capirci, io faccio sempre l'appello all'equilibrio, quando dice loro, generalizzando, intende una minoranza tra coloro che sono qui in queste condizioni, una maggioranza? Perché dice loro? Capisce che usando il termine loro è una... Ha ragione, è molto approssimativo. Intendo dire lavoratori pakistani, lavoratori marocchini, sia a livello basso, cioè di manovalanza, che qualcuno accetta obtorto collo, qualcuno invece a quel livello e quindi altro non può fare, ma anche persone molto evolute, egiziani, comunque insomma di derivazione medio orientale e di cultura musulmana, loro hanno in testa esclusivamente quello. Se mi dà 30 secondi le cito un episodio. Ho caricato in macchina un giovane, giovanissimo, evolutissimo, vestito in jeans, laureato in agronomia, ha chiesto di mettere una cassetta. Questa cassetta era costituita da un personaggio che urlava sistematicamente, inveiva nella loro lingua. Sa che cos'era? No. Anziché mettere su una cassetta di musica moderna. Che cos'era? Era un imam che faceva uno dei soliti comizi nei quali incitava a odiarci. E come fa a saperlo? Conosce la lingua? No, me l'ha detto un altro tecnico che era con me, che invece è un maronita, un libanese maronita, che ha capito tutto di quello che diceva questa voce inveente, ha capito? Ho capito, grazie Guglielmo di questa testimonianza. Quindi per esempio per Guglielmo si continua a sottovalutare che si è il numero degli integrati, dei non integrati, è molto più vasto nelle comunità islamiche di quanto ci sembri, e il radicamento, diciamo, dei imam che incitano all'odio è più esteso di quanto sia soggetto al controllo, anche per il semplice fatto di lingua, per così dire. Sentiamo Carlo da Roma, prego Carlo. Giannino, io vorrei dire dire, non è, vorrei fare un caso tecnico, diciamo, perché quello abbiamo quello che abbiamo, e d'altronde c'è una lunga tradizione sia in diplomazia che nei servizi segreti, a cominciare dal periodo precedente al ventennio addirittura, di ottima gente che si muove con intelligenza e con efficacia. Il problema è un problema come viene percepito da me, dall'uomo della strada, diciamo, il quale è preoccupato non per gli uomini o le risorse o i contenuti tecnici, ma per l'atteggiamento culturale delle istituzioni. Noi abbiamo delle istituzioni che non sono degne della qualità degli italiani. Io per esempio ritengo che Cossiga, che Parisi, che l'attuale Maroni siano degli ottimi ministri degli interni. E allora perché dice che non sono all'altezza? Perché l'atteggiamento nei confronti del terrorismo islamico, che poi questi siano casi specifici e occasionali, venga la conclusione, l'atteggiamento. Ma il contesto generale è quello di un conflitto che noi abbiamo contro una minoranza magari islamica che odia l'Occidente. Bene, Obama, io ero più convinto che... Non faccia incisi. Obama alla conclusione. Obama sta dicendo: la guerra, che è una guerra, la guerra dell'Afghanistan, è la guerra contro il terrorismo, ma non è una guerra americana, come volevate dirci sulla guerra dell'Iraq. Carlo, lei si perde un po'. Lei ha detto che i politici non sono all'altezza, poi se non sono all'altezza io non ho capito perché, però. La invito solo in 5 secondi a dircelo chiaro. Le linee non si coprono per molto spesso pavidità al politico, e siccome il politico non è deciso... Ho capito, adesso è un po' più chiaro. Se non si fanno certe cose... Adesso è un po' più chiaro, abbiamo, a proposito però di politici, che seguono da anni, esattamente poi non solo i fenomeni del terrorismo e della sicurezza, ma proprio quelli delle comunità e dell'integrazione del musulmano in Italia, abbiamo Alfredo Mantovano collegato telefonicamente con noi. Buongiorno, sottosegretario all'interno, buongiorno Mantovano. Ecco, lei ha visto che stiamo naturalmente toccando, abbiamo sentito il dottor D'Abroso prima, il dottor Andrea Margelletti, siamo partiti dall'osservazione che sui giornali di oggi è un pochino la riproposizione di una cosa che tende a capitare in Italia di fronte a fenomeni come questi, cioè chi prende sul serio la minaccia islamista dice sì, va bene, un terrorista fai da te, ma non sottovalutiamo e poniamoci il solito problema se stiamo facendo tutto per monitorare ciò che avviene all'interno dei centri culturali islamici, nelle moschee e così via, e altre dicono invece ma no, tutto sommato è un tipo a cui andavano male le cose economicamente, ha tentato di fare una cosa, non era capace, non preoccupiamoci troppo. Lei in questa forbice, di cui l'ultima posizione è paradossalmente anche troppo minimizzatrice, però su qualche giornale c'è traccia di questo, lei cosa dice? Stiamo facendo davvero tutto il necessario, riprendiamo in mano un secondo la questione delle comunità, del consiglio della comunità che era stato insediato al ministero, è stato messo davvero sotto esame tutto quello che è necessario fare nella vastissima rete di comunità e centri islamici e moschee del nostro paese? Beh, si può sempre fare di meglio e di più, l'Italia però ha già dalla sua positivamente un quadro normativo che non hanno altre nazioni europee e che ha permesso in più circostanze di arrivare prima, cioè di esercitare una sorta di difesa anticipata già alla fase degli accordi, della predisposizione dei mezzi, insomma senza avere necessità di trovare l'uomo con la bomba in mano possibilmente un secondo prima che esploda. Questo è avvenuto già all'indomani dell'11 settembre, ma è avvenuto soprattutto con il cosiddetto decreto Pisano del 2005. Se il quadro normativo credo sia tutto sommato molto soddisfacente, l'azione di governo probabilmente deve fare dei passi in avanti, nel senso che da parte delle forze di polizia vi è stata una mappatura molto più puntuale dei luoghi di ritrovo, anzitutto le moschee, ma non soltanto le moschee dell'Islam italiano. Adesso il passo successivo è utilizzare questo quadro informativo per consolidare contatti con chi intende l'Islam non come una spinta per delinquere, per realizzare atti illeciti e intende invece collaborare lealmente con le istituzioni perché sia garantita la libertà religiosa e sia preclusa l'utilizzazione di una sorta di pregiudiziale pseudo-religiosa per compiere degli attentati. Il lavoro non è semplice in questa direzione, come non è semplice il lavoro di prevenzione criminale in senso stretto, perché l'episodio di 2 giorni fa che va ancora decifrato, tutto sommato sono trascorse soltanto 48 ore, le forze di polizia stanno indagando, io attenderei un quadro un po' più stabile degli elementi di valutazione prima di minimizzare una volta per tutte, ecco. O di minimizzare o di enfatizzare, però è un quadro preoccupante, nel senso che grazie a Dio sono esplosi soltanto 300 grammi di ciò che era in quella valigetta. Se fossero esplosi tutti i 5 chili contenuti nella valigetta, certamente sarebbe morto, oltre all'attentatore, anche il militare che gli aveva di fronte, e non so che cos'altro sarebbe potuto accadere. Questo per quanto riguarda la potenzialità offensiva anche del gesto di un singolo affiancato da 2 persone. Perché è difficilissimo il lavoro di prevenzione criminale in senso stretto? Ma perché noi non dobbiamo fare l'errore di ritenere che il terrorismo islamico sia la riedizione 30 anni dopo delle BR con un presupposto pseudo-religioso invece che fortemente ideologizzato. Non ci si trova di fronte ad una realtà organizzativa unitaria, ramificata, in cui è possibile, seguendo un gruppo, riuscire a capire dove va l'insieme. Ci troviamo, lo abbiamo detto infinite volte, di fronte ad una realtà gassosa in cui esistono degli input spesso molto generici: punire l'Occidente che va in Afghanistan, punire i simboli dell'Occidente, anche quelli proprio del consumismo, il McDonald's, per far riferimento a un attentato di qualche anno fa nelle vicinanze di Brescia. Poi c'è chi questi input li recepisce o nella moschea o attraverso internet, senza essere mai passato da una moschea, e cerca di interpretarli a suo modo e con proprie modalità operative. La interrompo un secondo, sottosegretario Mantovano, la invito a restare lì perché un minuto sull'informazione e circolazione stradale, poi riprendiamo insieme a lei a Margelletti. Stefano D'Ambrosio, il capo ufficio coordinamento dell'attività internazionale del Ministero della Giustizia, ci ha dovuto lasciare e lo salutiamo e ringraziamo. Eccoci tornati in studio, ci stiamo interrogando su portata, radicamento, allarme, se tutto facciamo sulla prevenzione dopo l'attentato di 2 giorni fa alla caserma di Milano. Siamo collegati con il sottosegretario Mantovano e con Andrea Margelletti, il presidente del Centro Studi Internazionali. Ancora una telefonata da un ascoltatore, Demba da Bologna. Prego, Demba. Buongiorno. Giannino. Mi dica. Io intervenivo per un po' spiegare un po' quello che succede nelle moschee, perché io sono di origine senegalese, sono musulmano qui da più di 14 anni e vado sempre a pregare ogni venerdì in moschea. Però vi dico che le prediche che dicono, io non le vedo. Però, cioè le prediche di cui abbiamo parlato, quelle che incitano all'odio. Le dico perché io non capisco l'arabo, e questo è un trauma per noi altri musulmani che vanno a pregare nelle moschee, che stai lì come uno zombie, non sai quello che dicono, fai ginnastica e poi te ne torni a casa. L'Italia doveva fare come ha fatto in Francia, perché io vado in Francia spesso per vacanze. Lì le prediche si fanno in multilingue, chi va lì sa, perché andiamo per fare un rituale. Questo lo dobbiamo vivere nel nostro cuore, non parlare fra amici. Per esempio la consulta islamica è stata composta soltanto da cittadini arabi. Gli arabi sono arabi, ma non sono soltanto loro i musulmani. Certo. In Italia c'è una realtà che dobbiamo un po' cominciare a vedere. I musulmani sono vaste, non sono soltanto arabi. Chiarissimo il problema posto da Demba, e mi fa particolarmente piacere che tra gli ascoltatori, appunto ascoltatori musulmani, noi siamo un paese con un'elevata percentuale di immigrati e dobbiamo naturalmente convivere e aprirci alla comprensione, non solo alla tolleranza, mi piace proprio, ma alla comprensione reciproca. Demba ci pone un problema da musulmano. Il sottosegretario dice, noi andiamo lì per compiere il nostro rituale, non capiamo la lingua in cui si fa la predica. Che si può fare su questo, sottosegretario Mantovano? Può accordare, non certamente imporre dall'alto, ma ci si può accordare per il massimo della trasparenza. Noi non abbiamo la fobia nei confronti delle moschee, ovviamente siamo capaci di distinguere tra moschea e moschea, siamo anche capaci di capire che la moschea non è l'equivalente islamico della parrocchia per la Chiesa Cattolica, è qualcosa di molto più complesso, per cui non confondiamo, non sovrapponiamo il concetto di moschea col concetto di luogo di culto, ma fatta questa premessa mi sembra doverosa. Un elenco certo di moschee, un elenco altrettanto certo di imam, la possibilità di comprendere che cosa dicono per rispettare la libertà religiosa, ma anche per intervenire nel momento in cui invece di una predicazione religiosa ci si trova di fronte ad una predicazione di odio. Beh, questi sono elementi di chiarezza e di trasparenza, evidentemente non gli unici, che possono dissipare riserve, dubbi, perplessità e possono rendere il rispetto reciproco qualcosa di più fondato. Il problema della lingua è un problema che esiste, in passato fu istituita questa consulta per l'Islam italiano, non ha mai, devo dire, avuto pretese di rappresentatività. Probabilmente questo strumento adesso va rivisto, va ripreso il discorso con uno studio serio, e sulla base di una conoscenza nella quale non può mancare il contributo dei diretti interessati, poi attivare quell'azione di governo a cui facevo riferimento un istante fa. Io ho una domanda che faccio prima a Andrea Margelletti e poi, se avrà voglia di rispondere, il sottosegretario Mantovano. Chiedo a Margelletti, nella sua esperienza, nella sua impressione, una polemica istituzionale, io la definisco così, in realtà l'indagine formale condotta per anni dalla Procura di Milano nei confronti dei vertici di uno dei servizi di sicurezza italiano, i SISMI, per un'operazione di esfiltrazione, diciamo così, al di là della legge, sto parlando del caso Abu Omar e sto parlando dell'indagine della Procura di Milano che ha coinvolto l'allora capo del SISMI, Gian Niccolò Pollari, che si è poi conclusa con una richiesta di una condanna a 13 anni dello stesso capo del SISMI. Sappiamo che nel procedimento, lo ricordo per chi ci ascolta, c'è un ingombrante e però rilevante, molto rilevante dal punto di vista procedurale, segreto di Stato, confermato da governi di orientamento diverso su questo, però la Procura è andata avanti e ha fatto questa richiesta. La domanda è: una vicenda come quella, che quindi attiene agli aspetti più delicati di operazioni messa in sicurezza di esponenti osservati per anni dai servizi internazionali, fatta in cooperazione con i servizi occidentali, operazioni di questo tipo hanno coinvolto non solo quel caso in Italia, ma sono avvenute in Germania, sono avvenute nei paesi scandinavi, sono state una delle modalità con cui si è risposto al dopo Torri. Ecco, ma quando poi una procura per anni indaga e per anni formalizza le sue indagini, si chiede che non ci sia il segreto di Stato su questo e poi dice il capo del SISMI, che non è più capo del SISMI, sto travolto dalle polemiche, si deve fare 13 anni di carcere, gli altri servizi continuano a cooperare con noi, su quale base di fiducia? Allora, mi permetta di dire anzitutto, per rispondere a una telefonata di prima, che se noi vogliamo trasformare migliaia di cittadini di religione diversa dalla nostra in potenziali uomini bomba o donne bomba pronti a farsi esplodere perché non sono soddisfatti del loro lavoro che hanno qui nel nostro paese, sarebbe come dire che tutti i milioni di ragazzi che ascoltano quotidianamente, che so, Marilyn Manson, sono dei potenziali satanisti pronti a fare dei sacrifici umani. Quindi rimaniamo assolutamente con i piedi per terra. Come già vi dicevo prima, l'integrazione della nostra intelligence è fortissima, sia in Italia, che dispone di una serie di piattaforme di dialogo che altri paesi ben più celebrati del nostro non hanno, ma soprattutto all'estero. Io ho la forte sensazione che in questo momento i nostri servizi stiano parlando con la nostra intelligence, stia parlando con i paesi frontalieri da dove provenivano questi tre soggetti per vedere se c'è qualcosa anche su di loro. Per quanto attiene invece al caso Abu Omar, le rendition, le extraordinary rendition che sono state inaugurate, come lei ben ricorda, da Bill Clinton, l'amministrazione Clinton, sono state in molti versi estremamente efficaci per quello che hanno portato come risultati in materia di sia di acquisizione di informazioni, ma soprattutto di enucleare dei pericolosi elementi da realtà nelle quali stavano operando con grande efficacia. Ecco, i servizi secondo me possono e devono fare all'interno degli accordi con il proprio governo, cosa che ovviamente le forze di polizia non possono fare. E sono dell'idea che la vicenda Buomar bene non abbia fatto non tanto nei confronti della nostra intelligence, quanto piuttosto nei confronti del rapporto tra intelligence e struttura giudiziaria, perché molti paesi secondo me hanno alzato più di un sopracciglio, ma credo che la qualità della nostra intelligence e dei rapporti che ha con le intelligence magari molto più celebrate della nostra, ma in molti casi assai meno efficaci, esattamente sia data dai risultati della nostra intelligence ad esempio in Afghanistan, che ha ad esempio in numerosi chiarissimo, paesi. Chiarissimo, Margelet. No, chiarissimo. Lei dice la nostra qualità è tale che ci può mettere un cerotto. Mantovano, devo chiedere brevissimamente, ma il dopo richiesta alla Procura di Milano ha degli effetti secondo lei? Non le chiedo un giudizio sulla magistratura, ovviamente ci mancherebbe. No, io credo che gli effetti negativi in termini di collaborazione ci siano già stati nel momento in cui l'indagine si è aperta e che in questo momento si sia in una fase molto avanzata di ricucitura. L'ex capo del SISMI oggi è fuori dal sistema informativo, io mi permetto di dire purtroppo, perché ha svolto in passato un'opera molto importante, preziosa. Diciamo che quello è un esempio di un insieme di errori che vanno evitati da parte di più di uno. Certamente da parte dell'autorità giudiziaria deve tener conto che esiste un confine invalicabile tra l'azione di governo, soprattutto quando ha risvolti internazionali così rilevanti, e l'azione giurisdizionale in senso proprio. La devo interrompere su questo giudizio, molto chiaro, è colpa mia, le ho dato la parola troppo tardi, ma stiamo, ohimè, sforando. Quindi c'è un giudizio critico e tentiamo di evitare questo tipo di conflitti istituzionali. Appello all'equilibrio, come sempre, di Giannino anche oggi. Ringrazio in regia Paolo Corleoni, Alessandro Marco Tullo in redazione, la linea generale radio, appuntamento a domani. Vi ha presentato 9 in punto.